controriforma costituzionale oggi in discussione possa essere letta come il prodotto e insieme il riflesso di molti aspetti della crisi in atto, di fatto già appunto prodottasi nel nostro assetto costituzionale. La nostra ipotesi di lavoro è, in altre parole, che questa controriforma persegue la trasformazione in costituzione formale di mutamenti già in larga parte avvenuti nell'assetto istituzionale della Repubblica. Riflette, in breve, una deformazione della democrazia che si manifesta in una tendenziale decostituzionalizzazione della democrazia e costituzionalizzazione, per l'appunto, di questi elementi o aspetti della crisi. Aspetti di tipo antiparlamentare e antirappresentativo al tempo stesso. E questo ci sembra l'aspetto forse più grave di questa riforma, anche perché i suoi connotati, a mio parere, a parere di molti di noi, più gravi, vengono sottovalutati nel dibattito politico che ha sempre presentato questa riforma semplicemente come la devolution, quasi che l'unico elemento significativo fosse il federalismo, e cioè questa separazione rigida, grave peraltro, di competenze fra Stato e Regioni. E viceversa vengono ignorate certe alterazioni radicali dell'assetto, per l'appunto, istituzionale dei rapporti fra organi dello Stato, che a nostro parere sono gli aspetti più gravi e che forse, questo è l'elemento più inquietante, non vengono sottolineati perché riflettono un senso comune già, diciamo, ampiamente diffuso, non solo nella destra che si è fatto promotrice di questa controriforma, ma anche in parte della sinistra. Gli aspetti della crisi, a me pare, sono precisamente tre, i tre aspetti su cui abbiamo invitato i nostri amici a intervenire e che riguardano altrettante dimensioni della democrazia: la dimensione politica della democrazia rappresentativa, la dimensione istituzionale della separazione dei poteri, la dimensione più propriamente garantista dello Stato di diritto, cioè della soggezione dei poteri per l'appunto alla legge, e al tempo stesso della garanzia dei diritti e del principio di uguaglianza. Il primo aspetto è sicuramente il più vistoso. Si esprime in questo testo di controriforma, di riforma, di revisione, nell'introduzione di quello che Leopoldo Elia ha chiamato il premierato assoluto, e cioè nella verticalizzazione, concentrazione dei poteri nelle mani di un organo monocratico, e quindi in una lesione, a mio parere, naturalmente questa è un'ipotesi di lavoro sottoposta alla discussione, che lede uno dei principi fondamentali della democrazia rappresentativa, e cioè la rappresentanza senza vincolo di mandato. Che cosa intendo dire? Il premierato assoluto viene, diciamo, configurato in questo testo non solo attraverso il rovesciamento del rapporto di fiducia tra Parlamento e Presidente del Consiglio, Primo Ministro, così viene chiamato, sicché è il Parlamento che deve avere la fiducia del Primo Ministro, visto che il Primo Ministro può scioglierlo, e non viceversa, visto che viene soppressa la fiducia del Parlamento nei confronti del Presidente, immediatamente investito appunto dalle elezioni. L'aspetto più grave di questa riforma riguarda la disciplina della sfiducia, perché non soltanto è previsto che la sfiducia al Primo Ministro comporta l'automatico scioglimento del Parlamento, ma soprattutto è previsto che l'unico tipo di sfiducia che non comporta lo scioglimento del Parlamento è una sfiducia costruttiva, non di tipo tedesco, ma votata, deve essere votata questa sfiducia dalla stessa maggioranza che ha espresso il Primo Ministro sfiduciato. Questo significa blindare e in un certo senso congelare il Parlamento, riducendolo a una sorta di società per azioni in cui il pacchetto di maggioranza finisce per governare il Parlamento, per impedire le crisi parlamentari, e per vincolare i parlamentari ad una sorta di mandato imperativo, ovviamente non dal basso come siamo abituati a pensarlo, ma dall'alto. E quindi in una violazione, a me pare, dell'articolo 67 della Costituzione, che prevede che i parlamentari rappresentano la nazione senza vincolo di mandato. Non è possibile, in altre parole, una crisi di governo parlamentare in forza della quale, per un qualche fatto politico, una parte della maggioranza toglie la fiducia e unisce i propri voti alla minoranza. Da un lato è la minoranza che non ha nessuna possibilità dunque di contare in Parlamento, dall'altro è la stessa maggioranza che viene, per così dire, disciplinata da questa rigida, diciamo, da questa rigida blindatura del Parlamento, nel senso che, come è stato detto, mi pare, di nuovo da Leopoldo Elia, teoricamente un Presidente del Consiglio, un Primo Ministro, che disponesse in un Parlamento come l'attuale, appunto, in cui la maggioranza ha 340 parlamentari, di 40 o 50 parlamentari fedeli, sarebbe di fatto inamovibile. C'è poi un secondo aspetto grave che investe la separazione dei poteri. La separazione dei poteri è chiaro che viene in qualche modo squilibrata già per il fatto stesso della presenza di un premierato assoluto e quindi di una concentrazione così potente di poteri in capo al Presidente del Consiglio. Ma dal punto di vista, diciamo, della classica separazione fra i tre poteri, dobbiamo registrare che questa controriforma di fatto vanifica ed espropria la funzione legislativa del Parlamento. Uno degli aspetti più aberranti di questa riforma è precisamente la disciplina della funzione legislativa del Parlamento. Vengono introdotti ben quattro tipi di fonti: leggi di competenza della Camera con parere del Senato, leggi di competenza del Senato con parere della Camera, leggi di competenza congiunta delle due Camere, leggi di competenza del Senato su cui il Presidente del Consiglio può proporre modifiche e, nel caso delle leggi di competenza congiunta, in caso di conflitto, l'istituzione di una commissione, su questo poi si parlerà, di 60 membri che dovrebbe risolvere il conflitto. In più avremo conflitti, ovviamente, oltre che tra le diverse fonti, perché su ogni legge sarà possibile o comunque sarà facile sollevare il conflitto di competenza, di attribuzioni, anche conflitti tra conflitti, per esempio fra Stato e Regione e fra Camera e Senato, perché una medesima legge di competenza del Senato, su cui per esempio la Camera rivendica la propria competenza, è destinata ad essere il conflitto risolto da questo comitato degli otto, e al tempo stesso, se viene sollevato da una regione o dallo Stato nei confronti della regione, deve essere risolto dalla Corte Costituzionale. Quindi abbiamo dei metaconflitti, quindi dei conflitti tra conflitti, il cui effetto è facile immaginare, non può che essere, soprattutto in un sistema politico bipolare caratterizzato da una conflittualità così accentuata fra i due schieramenti, in forza delle quali, pensiamo a quello che sta succedendo oggi con la decisione di un'opposizione senza sconti da parte dell'opposizione, potrà evidentemente scatenare un sabotaggio sistematico della funzione legislativa e quindi il ricorso altrettanto sistematico ai decreti legge. È ovviamente una configurazione della funzione legislativa che probabilmente si deve in gran parte anche all'incompetenza di chi ha redatto questo testo, ma certamente il risultato è precisamente una paralisi del Parlamento. E per quel che riguarda il rapporto con la funzione giudiziaria, il testo non interviene, anche se dobbiamo segnalare un paio di norme che certamente accentuano, diciamo, la presenza politica nel Consiglio Superiore e nella Corte Costituzionale. Da un lato la previsione della nomina del vicepresidente da parte del Presidente della Repubblica anziché da parte del Collegio, e dall'altro l'aumento del numero dei giudici costituzionali di nomina politica parlamentare. Infine, il terzo e ultimo aspetto di crisi che in qualche modo, appunto, già si è manifestato di fatto nella nostra esperienza costituzionale, è precisamente questa, è la crisi del classico principio di legalità, della soggezione dei poteri alla legge. È chiaro che un sistema monocratico è insofferente di regole, di limiti, di controlli, c'è cioè un tendenziale. Registro tra l'altro incidentalmente che questi processi di concentrazione dei poteri, che sarà utile esaminare anche in altri ordinamenti, avvengono contemporaneamente all'aumento della complessità sociale, della complessità istituzionale, della complessità dei problemi e delle funzioni di governo e di garanzia, per cui paradossalmente di fronte a questa crescita di complessità la risposta è la semplificazione dei sistemi politici, che tendono sempre più, in Italia in forma, nelle forme in qualche modo diciamo anomale, in cui si ha anche una concentrazione tra poteri politici e poteri economici, ma dappertutto nelle forme della verticalizzazione e personalizzazione del potere politico, per cui il potere politico è identificato di volta in volta con i presidenti, saranno Bush, Chirac, Zapatero, eccetera, cioè una verticalizzazione e semplificazione delle funzioni politiche di governo. Per quel che riguarda, dicevo, l'ultimo punto, la struttura dello Stato costituzionale di diritto, certamente la modifica della seconda parte, la tesi che viene più volte, si viene più volte ricordata da Stefano Rodotà, non può che influire sulla prima parte, sulle garanzie dei diritti. La seconda parte in realtà disciplina l'organizzazione istituzionale e quindi strumentale dei pubblici poteri, deputati per l'appunto a funzioni di governo ma anche a funzioni di garanzia, e dunque ogni semplificazione, verticalizzazione del sistema politico finisce per riflettersi sulle funzioni di garanzia. Ma qui c'è una specifica e ulteriore lesione del principio di uguaglianza, che è quella per l'appunto introdotta dalla famosa devolution. Io credo che se c'è un significato che possiamo associare all'unità del paese è precisamente l'uguaglianza nei diritti. L'attribuzione alle regioni di una competenza esclusiva in materia di scuola, in particolare di sanità e di polizia, e cioè in materia dei classici diritti sociali, non potrà che portare ad una disuguaglianza nelle garanzie dei diritti. E la cosa è assolutamente evidente, nel senso che avremo non più semplicemente una disuguaglianza economica e una disuguaglianza, diciamo così, ma una disuguaglianza anche di cittadinanza, una disuguaglianza nei diritti, tanto quanto le regioni più ricche avranno evidentemente, potranno evidentemente fornire livelli più alti di soddisfazione dei diritti sociali. A me pare che siano questi tre aspetti, altrettanto aspetti, diciamo, inquietanti della crisi della democrazia, che questo progetto in qualche modo traduce in Costituzione formale. C'è anche al fondo di questa operazione, diciamo, un'operazione politica. Le forze che hanno approvato questo testo sono estranee alla Costituzione del 48, appunto salvo la frazione dell'UDC, si tratta di partiti nuovi che non hanno partecipato al patto costituzionale del 48, e c'è evidentemente, c'è stata l'intenzione di rifondare la Repubblica su una nuova carta d'identità, e precisamente la carta d'identità delle forze che l'hanno approvata. Rispetto a questa, e qui concludo, rispetto a questa minaccia che incombe sulla nostra Costituzione e conseguentemente sulla nostra democrazia, al di là della vittoria, speriamo tutti abbastanza sicura o comunque altamente probabile, dei no al referendum, io credo che dalla vicenda della revisione costituzionale, del lungo logoramento a cui da oltre 20 anni viene sottoposta la nostra carta costituzionale, dovremmo trarre delle lezioni. E questa lezione dovrebbe tradursi in una riforma che fortunatamente è inserita nel programma dell'Unione, che consiste in un rafforzamento della garanzia costituzionale della Costituzione medesima, e cioè dell'articolo 138. A me pare che, se dobbiamo mettere mano all'articolo 138, non si tratta soltanto di alzare il quorum da metà ai 2/3 e magari ai 3/4, perché una Costituzione non può non essere una Costituzione di tutti, stabilendo le regole del gioco, che sono innanzitutto regole contro la maggioranza, ma occorrerebbe anche prevedere, sull'esempio per esempio della Costituzione tedesca e di altre Costituzioni più recenti, una immodificabilità di alcuni principi supremi, come del resto è stato affermato dalla Corte Costituzionale, fra i quali io credo, oltre ai diritti fondamentali, il principio di uguaglianza, dovremmo introdurre anche il principio della rappresentanza senza vincolo di mandato, che per l'appunto mi pare leso da questa controriforma. E in più un'ultima norma sulla revisione dovrebbe consistere nel fatto che dovrebbero essere possibili soltanto emendamenti e non la riscrittura dell'intera Costituzione. Questa è una nuova Costituzione, non è una semplice revisione, e quindi è una revisione che, per così dire, usurpa il potere costituente e anche la sovranità popolare. La revisione totale o quasi totale, in questo caso di metà della Costituzione, in altri ordinamenti non è prevista, è prevista soltanto in Svizzera, in Spagna, con procedure particolarmente complicate, perché il potere di revisione è un potere costituito che evidentemente può esprimersi nella modifica di parti, di settori del testo costituzionale, non certamente l'intera Costituzione, anche perché la Corte Costituzionale si è pronunciata per l'omogeneità dei quesiti, naturalmente si è pronunciata in questo senso a proposito dei referendum abrogativi, ma la ratio è la stessa. Il popolo quando va a votare deve sapere di che cosa si tratta, cioè nel nostro caso si tratta di norme, di revisioni, di riforme che riguardano la forma di Stato da federale, da una unitaria federale, la forma di governo da parlamentare a semipresidenziale, l'intero assetto dei poteri, e dunque sfugge alla possibilità di una risposta univoca, appunto, e consapevole sulla diretta al no e al sì su specifiche norme. Io credo che questi siano i temi, diciamo, proposti alla nostra riflessione in vista per l'appunto di questo convegno che intendiamo promuovere sugli aspetti di crisi non soltanto in Italia ma in generale nelle democrazie occidentali, della rappresentanza in particolare, ma anche dei vincoli costituzionali. Questi due aspetti sono, a mio parere, in Italia particolarmente distorti, ma largamente comuni anche ad altri ordinamenti. Adesso... adesso, proprio sulla rappresentanza, la parola al professor Leopoldo Elia. Questo era particolarmente visibile nel disegno di legge governativo che è stato presentato al Senato, e emerge questo carattere di similianza, di analogia con il sistema delle per le regioni, con la forma di governo per le regioni e per i comuni superiori a un certo numero di abitanti. Cioè un sistema che si ispira al famoso aut simul stabunt, aut simul cadent. E questa assimilazione è estremamente discutibile, insomma, come sapete, perché evidentemente si trascura un fatto fondamentale, che questa forma di governo che secondo la Corte Costituzionale è originale, è autonoma, è diversa dalla forma di governo parlamentare, con un rapporto fiduciario, diciamo, di tipo classico, di tipo tradizionale, e è una forma di governo che dà luogo indubbiamente a una crisi della collegialità in qualche misura, a una difficoltà dei consigli regionali e dei consigli comunali di avere un rapporto non servile in qualche modo col famoso governatore, col famoso presidente della giunta o col sindaco che è al centro della vita di una città o di un comune. Questa assimilazione è impropria, ecco, anche se si può tollerare quest'automatismo di sfiducia crisi che c'è nelle regioni, che è tutta ope legis, perché non essendoci un capo della regione come c'è un capo dello Stato, lo scioglimento si produce automaticamente o con la sfiducia o con le dimissioni del presidente della giunta regionale. Questa situazione già molto discutibile per le regioni e per i comuni, che si configura secondo la Corte Costituzionale già un po' nella sentenza sullo Statuto della Calabria, ma più ancora nella sentenza sullo Statuto dell'Abruzzo, sentenza numero 12 del 2006, e si stabilisce un rapporto che non sarebbe di fiducia, ma sarebbe di consonanza politica tra il cosiddetto governatore e il Consiglio regionale. Un rapporto non creato dalla fiducia del Parlamento, espressa dal Parlamento, come appunto avviene anche con l'elezione del cancelliere in Germania, ma qui sarebbe un rapporto di consonanza politica creato dal popolo, creato dagli elettori, un rapporto che non potrebbe essere rotto se non a prezzo appunto dello scioglimento. E questo sistema molto appunto anche discusso, insomma criticato per certi aspetti, che però ha assicurato finora quinquennati senza crisi, perché avviene una sorta di convergenza di interessi del governatore a rimanere in carica per un periodo lungo e del Consiglio a non essere sciolto. Si vedrà poi, da un esame che ancora non è stato fatto, quanto questo rapporto dia luogo a un governo veramente efficace, cioè sapere se rispetto ai programmi, ai propositi della campagna elettorale, eccetera, poi si è riusciti, quanto si è riuscita a tradurre in leggi o in atti di indirizzo del governo regionale. Ma comunque questa molto discutibile o abbastanza discutibile relazione diventa assolutamente inadatta e impropria se trasferita a livello nazionale, a livello statale.